343. Sformato di semolino ripieno di carne. Gli sformati ripieni di bracioline o di rigaglie si fanno ordinariamente di erbaggi, di riso o di semolino. Se di quest'ultimo, servitevi della ricetta numero 230. Mescolate tutto il burro e il parmigiano entro al composto, versatelo in una forma liscia oppure col buco in mezzo che avrete prima imburrata, coprendone il fondo con carta unta egualmente col burro, il ripieno di carne che porrete in mezzo al semolino o nel buco dello stampo, tiratelo a sapor delicato con odore di tartufi o di funghi secchi. Cuocetelo a bagnomaria e servitelo caldo con alquanto sugo sopra per dargli migliore apparenza.